e Denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Deborah, come va? Abbastanza bene, grazie. E non voi? Mi posso lamentare. Che ci seguite da casa? Perché oggi, intanto buongiorno, vorrei iniziare la puntata con un esperimento in diretta. State ascoltando un brano delle nozze di Figaro? Non abbiamo scelto a caso questo brano perché proprio la musica di Mozart, secondo una recente ricerca dell'Università della Ruhr a Bochum, abbasserebbe la pressione e la frequenza cardiaca. E in questo periodo di dopo Brexit, e anche dove la pressione dei mercati è quella che è, e anche dopo l'attacco un po' di Juncker, che ha avuto un po' uno sbotto, ha perso la plomb. Io direi che non potrebbe che farci bene sentire un po' di musica di Mozart e lasciarci un po' contagiare da questo effetto. Ecco, ti ringrazio, anche perché io questa mattina, a giudicare dalla borsa, invece mi sono fatta un po' contagiare dai mercati azionari e mi sentivo in avvio di trasmissione un po' volatile, che è la parola d'ordine che sta un po' regnando questa mattina fra gli operatori finanziari. Volatile come è soprattutto Piazza Affari, dove i titoli bancari continuano ad andare sul lotto volante. Stamattina abbiamo un quadro di nuovo negativo sui big del settore. Comincio subito a deprimervi dicendo che Unicredit perde il 5%, questo gruppo sta cercando il suo nuovo amministratore delegato, oggi si dovrebbe svelare una rosa di nomi possibili. UbiBanca meno 4,5%, Monte dei Paschi meno 4,5%, Intesa meno 3,82%, andiamo ai positivi, Prismian, STM, rialzo di 1,5%. Queste notizie con la musica di Mozart in sottofondo stonano un po', dici che è terapeutica, aiutiamoci, bene. Tutto quello che ci aiuta... utilizziamolo. E speriamo che siano anche terapeutiche le indicazioni che ci darà Monica Defend di Pioneer Investment nella seconda parte della trasmissione, perché oggi torna Investire Informati. Mentre la pagina di cuore di oggi prende spunto dalla storia di Chiara, una bambina di soli 2 anni che è arrivata al pronto soccorso del Gaslini di Genova in condizioni molto gravi. La piccola presentava un peso decisamente inferiore alla norma, era scarsamente reattiva, aveva valori preoccupanti di emoglobina e anche delle carenze di vitamine, una condizione clinica che sembrerebbe collegata al tipo di alimentazione. Adesso le condizioni sono migliorate, la piccola è stata trasferita dalla rianimazione al reparto di pediatria. Una premessa, queste sono notizie che noi apprendiamo dai giornali, in quanto il Gaslini non ha diramato alcun comunicato. Ovviamente, no? E oggi il Secolo XIX riporta una dichiarazione del padre che dice: mia figlia non sta bene, ma questo non ha nulla a che vedere con la dieta vegana. Io sono alto e grosso e mangio anche uova e pesce. Noi non vogliamo assolutamente entrare nel merito perché non abbiamo elementi, non è neanche l'obiettivo della nostra puntata. Oggi ci occupiamo di questo caso non certo per giudicare i genitori della piccola, ma per tornare a parlare di alimentazione, che ha un ruolo, lo sappiamo bene, determinante nel promuovere e mantenere la salute in ogni fase della vita, ma soprattutto nei primi 1000 giorni di vita, quelli che intercorrono tra il concepimento e i primi 2 anni di vita, periodi in cui si mettono proprio le basi, le fondamenta della salute dell'uomo che verrà. Allora 800 24 00 24 per intervenire e raccontarci che tipo di alimentazione seguite, quale alimentazione proponete ai vostri bambini. Chiamateci se per motivi etici, religiosi o salutistici avete deciso di eliminare o limitare alcuni alimenti. Chiamateci, parliamone, perché quando c'è di mezzo un bambino qualche domanda in più è d'obbligo. Chiara non è la sola, non è la prima, bambina cresciuta con un'alimentazione priva di prodotti animali, lo sappiamo bene che il numero dei vegetariani e dei vegani sta aumentando di anno in anno e sono sempre di più le famiglie che condividono questa scelta anche con i propri figli, sin dallo svezzamento. Il caso di Chiara è un caso estremo, però non è un caso isolato. Altri bambini, la stampa l'ha riportato, sono stati ricoverati in pronto soccorso in condizioni gravi, provocate da un'alimentazione non equilibrata, non adeguata a soddisfare tutte le esigenze di un organismo in crescita. Segno che questa può essere una scelta che va accompagnata, non può essere improvvisata, non ci deve essere il fai da te. E forse per rispondere proprio a questa esigenza, che è nato a Milano, all'ospedale Fate Bene Fratelli, Fratelli, un centro proprio che aiuta anche le famiglie che fanno scelte vegetariane e vegane ad impostare un'alimentazione adeguata per i loro figli. Ne parliamo oggi con la dottoressa Francesca Pinto, che è endocrinologa pediatrica ed esperta di nutrizione al Fate Bene Fratelli di Milano. Buongiorno. Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori. Allora, dottoressa Pinto, facciamo prima un ABC, un biglietto da visita, come direbbe Deborah, perché c'è chi si limita a non mangiare carne e pesce, chi elimina anche le uova e i derivati, chi esclude tutti i prodotti di origine animale. Insomma, la realtà è più complessa di quello che spesso si immagina. Noi diciamo vegetariani o vegani, ma insomma non è proprio così semplice. Ci faccia un quadro rapido della situazione. Sì, certamente, il quadro è molto complesso. Diciamo che negli ultimi anni è aumentato il numero di persone che per motivi ideologici, salutisti, alcuni anche per moda, decidono di eliminare dalla propria dieta alcuni elementi che ritengono essere in disaccordo con il proprio pensiero. Già da molti anni è aumentato il numero di vegetariani, che sono coloro che escludono l'assunzione di cibi animali diretti come carne e pesce, ma assumono cibi animali indiretti come latticini e uova. Soprattutto nell'ultimo periodo è aumentato il numero di vegani, che invece escludono completamente i cibi animali, sia diretti che indiretti. Purtroppo molte delle persone che fanno queste scelte non hanno un'adeguata preparazione che gli consenta di equilibrare adeguatamente l'apporto di nutrienti, e questo è un grosso problema. E di questo parleremo, ne parliamo insieme anche a tanti esperti. Abbiamo coinvolto anche una collaboratrice che lavora al centro del Fate Bene Fratelli, che è una nutrizionista. Parleremo anche con un rappresentante della Società Italiana di Pediatria. Vogliamo sapere naturalmente anche se hanno preso delle posizioni, che cosa, se ci sono dei dati, delle linee guida. Vogliamo avere un atteggiamento assolutamente non giudicante. Facciamo un passo indietro, vediamo qual è la cosa migliore per i nostri bambini. Dottoressa Pinto, è corretto? Sì, sì, okay. Correttissimo. Allora, io volevo chiederle, dottoressa, non abbiamo i dati, non ce li abbiamo neanche noi, perché il Gaslini giustamente non ha fatto alcun comunicato. Non li ha lei, e i medici lavorano su dei dati clinici che non abbiamo. Io necessariamente faccio riferimento a Chiara, ma possiamo chiamarla anche Angelina, Pinuccia, ecco, ad una bambina che... in questo caso si trova, no, ad affrontare una situazione di forte malessere causato da un'alimentazione. Insomma, quali sono i possibili rischi di un'alimentazione che particolarmente restrittiva, o che sceglie di non utilizzare, come in questo caso, così riportano i giornali, ma inventiamoci un caso qualunque, una dieta priva di prodotti di origine animale? Allora, ovviamente, come ha già anticipato lei, sicuramente io non mi sbilancio su questo caso né su nessun altro, perché non avendo davanti il paziente né sapendo la sua storia né i suoi dati nulla posso dire. Quello che posso affermare è che in generale un'alimentazione selettiva deve essere adeguatamente pianificata e complementata con l'aiuto di un esperto, in modo da ridurre eventuali deficit. Questo è vero soprattutto per i bambini, perché mentre nell'adulto una scelta di questo tipo comporta meno rischi ed è meno complicata da gestire in termini di supplementazione, in un bambino la faccenda si complica tantissimo. Infatti, durante la crescita è necessaria una continua correzione di supplementi in modo da fornire tutti i nutrienti di cui il bambino ha necessità. Sì, certo. Se la dieta è correttamente pianificata, e sottolineo con l'aiuto di un esperto che indichi non solo la quantità ma anche le modalità di assunzione, a volte assumiamo, ma questo tutti quanti, tutto ciò che pensiamo essere necessario, ma con modalità sbagliate che magari riducono gli assorbimenti, e quindi è come non aver assunto una determinata sostanza. Poi ce lo spiegate questo aspetto, perché certo, sicuramente, ecco, la mia dottoressa Mariotti, molto più esaustiva di me, che è in linea con noi, intanto la salutiamo. Dottoressa Mariotti, si segni questo passaggio, perché sì, vogliamo saperne di più. Intanto buongiorno. Sì, me lo sono segnato e dopo ne parleremo insieme. Grazie, dottoressa Pinto. Sì, ecco, concludo che esistono però degli elementi che nello specifico nel caso dei bambini vegani, per esempio la vitamina B12 è presente soltanto nei cibi animali, per cui questi bambini devono necessariamente essere supplementati. Questo il pediatra lo sa, e quindi è necessario che venga fatta sotto la sua guida l'adeguata supplementazione, anche perché è proprio questa la carenza ad essere un po' uno dei fattori fattore di rischio principale per la salute dei nostri bimbi, in quanto può essere causa di anemie gravi e anche di danni neurologici addirittura irreversibili. Allora, noi adesso ci fermiamo all'800240024, aspettiamo i vostri contributi, le vostre telefonate, le vostre domande, le vostre esperienze, andiamo a sentire che cosa succede sulle strade e sulle autostrade e ritorniamo subito dopo insieme, tra poco. Cuore e denari. Eccoci qua, siamo tornati insieme, oggi prendiamo spunto dal caso di una bambina di 2 anni che è arrivata all'ospedale Gaslini di Genova in uno stato di grave malnutrizione e carenza vitaminica, così riportano i giornali, un episodio questo che riapre grandi interrogativi sulle scelte alimentari delle famiglie, soprattutto se queste coinvolgono naturalmente i bambini. Abbiamo in linea con noi la dottoressa Francesca Pinto, la dottoressa Lisa Mariotti che lavorano in questo ambulatorio che il Bene Fratelli di Milano ha creato proprio come supporto alle famiglie. Dottoressa Pinto, ci racconti brevemente l'anima un po' di questo ambulatorio? È chiaro, no, che di fronte all'esigenza di aiutare, tutelare anche la salute dei bambini, dare delle informazioni adeguate, immagino che abbiate pensato di creare in questa struttura pubblica, nel Fate Bene Fratelli di Milano, un ambulatorio in cui i genitori possono trovare personale che è in grado di fornire loro tutte le indicazioni adeguate per, giusto? Sì, esatto. Ma diciamo che il nostro ambulatorio nasce da un'esigenza di cui ci siamo resi conto un po' con tutti i colleghi pediatri del nostro reparto, sia vedendo i pazienti ricoverati, ma anche su richiesta diretta dei pediatri, proprio per tutelare questi bambini. Da una parte richiesta delle famiglie che purtroppo, possiamo dircelo sinceramente, a volte si sentono un po' giudicate o comunque poco capite nella loro scelta, sia diciamo nell'ambiente normale ma anche dal punto di vista medico, e poi ci è stato chiesto anche supporto dai pediatri stessi perché ovviamente è necessario una preparazione, certo, come continuo a sottolineare, per poter gestire la crescita dei bambini. Quindi invitiamo, è difficile farlo quando un bambino assume tutte le cose, ovviamente una scelta diversa o a volte anche un'esigenza diversa, perché ci sono dei bambini che hanno un'alimentazione selettiva per altre motivazioni proprio cliniche, devono essere accompagnati adeguatamente. Allora, se avete dubbi, domande, noi siamo qua con i nostri esperti per darvi tutte le indicazioni del caso. Intanto vorrei salutare il professor Giovanni Corsello, presidente della SIP, che è la Società Italiana di Pediatria. Buongiorno professore, grazie per essere con noi. Buongiorno a tutti voi. Professore, ci dice un po' il parere, l'opinione, la posizione della Società Italiana di Pediatria? Sì, la posizione della Società Italiana di Pediatria è consolidata ormai da molto tempo e si basa su una esigenza che è giusto condividere anche con le famiglie, con i media, con tutta la società civile. Cioè, il bambino non può essere assimilato e paragonato a un adulto, ha delle esigenze cliniche, nutrizionali, biologiche, peculiari, è un individuo a sé e quindi non può essere sottoposto neppure a degli regimi dietetici uguali a quelli dell'adulto, perché rischia di subire dei danni, di avere delle carenze, in questo caso nutrizionali, che possono anche essere causa di danni permanenti. Quindi il primo grande allarme che noi come Società Italiana di Pediatria abbiamo lanciato è quello di considerare i bambini come individui, con persone che hanno bisogno di una attenzione speciale, quindi della sorveglianza di un esperto, come in questo caso il pediatra, quando si deve valutare e garantire quello che sono i suoi processi di crescita e di sviluppo. Ho accennato ai 1000 giorni, no? Proprio questo periodo, sì, cruciale, sì, per lo sviluppo del bambino, in cui l'organismo veramente si trasforma con una capacità e una velocità, no? Anche che non si ritrova più in nessun'altra fase della vita. Infatti si mettono in quel periodo, si mettono a regime tutta una serie di meccanismi, di processi anche di natura epigenetica, come oggi si definiscono, che poi agiscono per tutta la vita. Quindi questo primo periodo, questi primi 3 anni dal concepimento fino al compimento del secondo anno di vita, sono quelli decisivi per molti sistemi, per molti apparati, in particolar modo per quelli nutrizionali e per quelli metabolici. E quindi anche alla luce di queste nuove conoscenze è necessario che questo periodo sia particolarmente equilibrato, particolarmente controllato, particolarmente soggetto ad una attenzione da parte delle famiglie, ma anche da parte degli specialisti che hanno in cura e in carico la salute del bambino, che sono i pediatri. Professore, anche se sono casi isolati, sono sempre troppi, insomma, che un bambino finisca in ospedale per problemi legati a carenze nutrizionali è intollerabile, ci stringe il cuore, no? I genitori, si legge dai giornali, comunque hanno portato la bambina su indicazione dei medici della ASL, del pediatra, ma io mi chiedo, lei non mi può rispondere, ma vorrei fare un ragionamento insieme. Possibile che questa bambina non abbia mai fatto un bilancio di salute? Sono proprio quelle visite che abbiano lo scopo di, che hanno lo scopo di verificare l'accrescimento e anche per discutere eventuali problemi. Insomma, si arriva a uno stato di malnutrizione. Questo per chiederle, il pediatra ad occhio, immagino, è in grado di distinguere, di capire se il bambino è in salute, sì, sta bene, nutrito bene. Adesso le mamme ci hanno l'occhio, e immagino ancora di più gli esperti, per cui un bambino che magari sottopeso, che sembra un po' moggio, scatterà qualche lampadina. Noi non sappiamo nello specifico. No, noi non entriamo, ecco, però sicuramente il ruolo del pediatra di famiglia è proprio quello di esercitare un ruolo di sentinella, di sorveglianza, di controllare se in questo processo di crescita nei primi anni di vita compaiono dei segni che possono essere collegati anche a una carenza nutrizionale. Questo è sicuramente un compito che il pediatra svolge e sicuramente è chiamato a farlo nella sua qualità di pediatra che opera all'interno di una famiglia e non solo nei confronti di un singolo bambino. Quindi fa parte di quella che è la missione, il compito del pediatra, ed è quello che in Italia si fa con la diffusione della pediatria di famiglia in tutto il territorio nazionale. E qui c'è anche però da considerare che spesso non c'è la consapevolezza, anche a livello delle famiglie, sulla importanza di una alimentazione completa, equilibrata, adeguata nei primi anni di vita. Cioè si ritiene che un regime dietetico che magari va bene per un adulto possa essere traslato in modo abbastanza automatico su un bambino. Questa equazione non si può fare, è pericolosa, soprattutto in età precoce. Il caso delle diete vegane espone sicuramente nei primi due anni il bambino alla carenza di alcuni amminoacidi essenziali, di alcune vitamine preziose come la vitamina B12, di alcuni minerali come lo zinco e lo stesso ferro, e quindi sono dei bambini che sono a rischio di carenze che vanno preventivamente valutate e adeguatamente controllate. Quindi non si può proporre a un bambino una dieta vegana sic et simpliciter come magari può farla un adulto. Allora, professore, mi scusi, voglio leggere un messaggio di un ascoltatore che ci scrive: quando si parla di alimentazione vegana potrebbe avere senso invitare il rappresentante di associazioni di vegani e o medici vegani. Ci sono moltissime esperienze positive di bambini allevati con dieta vegana, ma non se ne parla e non ne vengono riportate. Noi parliamo di un caso di una bambina che ha seguito una dieta evidentemente carente, che l'ha portata ad uno stato clinico tale per cui i medici l'hanno ricoverata. Non c'è alcun giudizio in linea con noi, forse l'ascoltatore non lo sa. Ci sono due esperte, la dottoressa Francesca Pinto e la dottoressa Lisa Mariotti, che sostengono e accompagnano, sono medici e accompagnano le scelte dei genitori che decidono di passare, trasferire anche i loro principi ai loro figli, e quindi questo per completezza di informazione. Abbiamo il professor Corsello, che è presidente della Società Italiana di Pediatria, a cui prima di salutarlo chiedo: se una famiglia arriva da lei e dice: professor Corsello, noi siamo genitori, seguiamo una dieta, un'alimentazione priva di prodotti animali, e così vogliamo svezzare anche il nostro bambino. Tra poco parleremo anche del momento dell'allattamento, perché che è assolutamente importante, ne parleremo tra poco. Qual è la sua posizione, che immagino rifletta anche un po' la posizione dei pediatri che lei rappresenta? E dice: non lo faccia? O oppure le dice mi raccomando si faccia aiutare. Chiariamo questo aspetto. Assolutamente sì, è importante, perché la posizione della Società Italiana di Pediatria e anche la mia non è una posizione ideologica o di preclusione contro un'alimentazione vegetariana o vegana. Quello che bisogna condividere con queste famiglie è che un'alimentazione di questo tipo è un'alimentazione sbilanciata, che non corrisponde a tutte le esigenze nutrizionali di un bambino, e che quindi, se loro vogliono portarlo avanti, devono farlo in un regime di controllo stretto di tutti i parametri clinici e di laboratorio, con una interazione con il pediatra frequente e continuativa, per trattare anche preventivamente con degli integratori le eventuali carenze che possono essere collegate con una dieta vegana. Quindi, di fronte a una decisione di portare avanti una dieta vegana, è solo con la sinergia con il pediatra che questa può essere portata avanti per prevenire e trattare le carenze nutrizionali. Quindi comunque deve essere il frutto di un percorso controllato e condiviso. Questo è il messaggio, la posizione. È il messaggio pratico che va messo in atto, oltre che grazie. Dichiarato. Professor Corsello, grazie per essere stato con noi. Grazie a voi. Grazie anche a voi. Noi restiamo insieme alla dottoressa Lisa Mariotti, alla dottoressa Francesca Pinto, con cui daremo anche delle indicazioni, risponderemo ai nostri ascoltatori. Allora, Antonio da Ferrara arriva, ci fa da cavaliere. Andiamo a quattro donne da accompagnare a sentire il GR. Non gli capiterà mai più. e subito dopo torniamo insieme. 800 24 00 24, se volete intervenire. Adesso diamo la linea al nostro GR, quindi completeremo poi la prima parte di Cuore Denari, per poi andarci a sedere ai banchi della scuola di risparmio. Tra poco. Il segnale orario vi è offerto da Assicom. Vendi bene e incassa meglio. Marketing, informazioni commerciali e recupero crediti. Assicom.com. I 100 secondi di Radio 24, Il Sole 24 Ore. Le firme più autorevoli del Sole 24 Ore aprono le porte al mondo dell'attualità politica ed economica nel primo editoriale cross-mediale di informazione. Dal lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 e su RDS, e in video su radio24.it e su rds.it. Cuore e denari. Eccoci, siamo tornati insieme, riprendiamo il tema che abbiamo sviluppato nella prima parte della trasmissione, prendendo spunto da un caso che abbiamo letto sui giornali di una bambina che è arrivata alle Gaslini di Genova con un quadro clinico molto preoccupante, che si ipotizza possa essere collegato al tipo di alimentazione che i suoi genitori seguono, soprattutto la mamma, secondo questo, perché il padre oggi ha rilasciato un'intervista in cui dice di mangiare anche le uova e il pesce, e che comunque potrebbero essere la causa dello stato del quadro clinico molto preoccupante della bambina, che è stata ricoverata e di cui adesso sappiamo sempre dai giornali che la situazione è migliorata. Ne stiamo discutendo con la dottoressa Francesca Pinto e con la dottoressa Lisa Mariotti, che sono anime di questo ambulatorio che si è aperto al Fate Bene Fratelli di Milano, che nasce proprio con l'intenzione di supportare e aiutare le famiglie che fanno una scelta di questo tipo. Dottoressa Mariotti, la dottoressa Pinto, e anche mi sembra di aver così interpretato l'opinione del presidente della Società Italiana di Pediatria, hanno ben sottolineato che un'alimentazione che magari non ha tutti gli alimenti, ad esempio esclude alcuni tipi di alimenti, potrebbe avere come conseguenze, provocare delle carenze, e quindi va comunque accompagnata, seguita con dei controlli, no? Sappiamo che i rischi di un'alimentazione, in questo caso vegana, potrebbero essere portare delle carenze di vitamina B12, di zinco, di acido folico, di ferro. Che cosa suggerite per evitare questi rischi? Beh, sicuramente sono i legumi che costituiscono la fonte primaria di proteine nelle diete vegetariane e vegane. Quindi soltanto per i bambini vegani, non citando i vegetariani che invece utilizzano uova e latticini, diciamo che a causa di una minore digeribilità delle proteine vegetali rispetto a quelle animali, viene suggerito un aumento precauzionale dell'apporto proteico rispetto ai valori di riferimento, i nostri LARM, quantificabile nel 10-15% in più rispetto agli apporti invece previsti per fascia di età. Spesso viene anche consigliato di associare i legumi con i cereali durante il pasto, comunque nella giornata alimentare, per ottenere un apporto proteico di più elevato livello biologico. Sicuramente per quanto riguarda la vitamina B12, questa vitamina è presente solo negli alimenti di origine animale e pertanto i bambini vegani devono assumerla con gli integratori, trovandola anche in alcuni alimenti fortificati o, nel caso dei più piccolini, anche nel latte materno, valutando sempre la dieta della mamma, ovviamente. Ecco, in quanto la carenza di questa vitamina causa anemia grave e anche danni neurologici, anche irreversibili, quindi non si scherza assolutamente. Avevamo esatto. Antonio da Ferrara, buongiorno Antonio, poi Andrea da Venezia. Antonio, sì, buongiorno. Sì, buongiorno, buongiorno a lei, Nicoletta, e ai suoi ospiti. E naturalmente, da quello che sto ascoltando, è tutto vero, cioè i geni non devono assolutamente improvvisare diete, perché è molto pericoloso. Non fa male essere vegane né vegetariane, ma va monitorato da professionisti, per cui il consiglio che si può dare ai genitori: se volete bene ai vostri figli, potete farlo, ma no, con i professionisti, dovete essere seguiti con i professionisti. Non si possono improvvisare diete prese dai giornali o sentito dire da un amico, è pericolosissimo. Grazie, Antonio. Antonio, lei ha dato anche una mano alle nostre esperte per rafforzare il messaggio che sta emergendo da questa puntata. E Andrea da Venezia. Andrea, buongiorno. Buongiorno. Volevo porre una domanda. La vitamina B12, che è presente solo nelle proteine animali, quando viene integrata nelle diete vegane, l'origine di quella vitamina, quindi come prodotto di sintesi, è sempre comunque di origine animale o si riesce a sintetizzare? Sì. Allora, la voce è andata un po', ma la domanda l'abbiamo capita. Dottoressa capito. Mariotti. Ho sentito un attimo la voce, comunque sì, assolutamente dice, sì. Essendo un integratore, il prodotto è di sintesi, e non trovandolo in nessun modo negli alimenti di origine vegetale, va integrato assolutamente con gli integratori. Si possono anche trovare, come ho detto prima, degli alimenti fortificati con questo tipo di vitamina, e per i più piccolini, con un'integrazione della dieta della madre, se è vegana, ovviamente si troverà anche una presenza di questa vitamina nel suo latte materno. Passando anche al calcio, anche qui l'introito di calcio da parte dei vegani può essere inferiore a quello della popolazione generale, e un buon apporto di questo minerale durante l'età pediatrica può essere comunque offerto con anche degli alimenti invece ricchi in calcio, come alcuni cereali fortificati, ma anche i legumi. Alcuni tipi di verdure, la frutta secca, ad esempio le mandorle, sono una buona fonte di calcio, e senza dimenticare anche l'importanza di molte acque, perché anche la composizione delle acque varia a seconda della concentrazione di sali minerali. Certo, quindi bisogna leggere l'etichetta. Ricche, assolutamente, ci sono anche quelle più ricche in calcio nel nostro caso. Per quanto riguarda il ferro, invece, è importante sottolineare come i vegetali contengono esclusivamente un ferro di tipo noneme, e quindi ha una minore biodisponibilità rispetto al ferro eme, e quindi anche qui le assunzioni di ferro consigliate per i vegani sono raddoppiate rispetto a quelle dei non vegani. Ci sono poi nelle diete dei nutrienti, degli elementi come i fitati, anche il calcio, che ostacolano l'assorbimento del ferro, ma c'è da dire anche che invece si può favorire lo stesso assorbimento con la vitamina C, quindi l'utilità di utilizzare. Ecco, quindi quando la dottoressa Pinto in apertura diceva che le diete vanno correttamente pianificate con l'aiuto di un esperto che indichi non solo le quantità ma anche le modalità di assunzione degli alimenti. Assolutamente. Ecco, infatti, questa è una modalità. Una quantità di succo di limone come condimento degli alimenti può favorire l'assorbimento del ferro in questo caso. Per quanto riguarda invece anche lo zinco, che è stato citato prima, anche qui la biodisponibilità nelle diete vegane è ridotta, anche per la presenza poi di fitati e fibre, un alto quantitativo di fibre che è presente nell'alimentazione strettamente vegetariana, pertanto il fabbisogno di zinco deve essere superiore almeno del 50% rispetto alla popolazione generale ed essere perciò supplementato. Dottoressa Mariotti, abbiamo un ascoltatore scioccato nel sentire cose del genere, ci scrive: alimenti fortificati, integratori per bambini vegani. L'ascoltatore, che non si firma, è scioccato. C'è da scioccarsi? Beh, è una domanda un po' simpatica. No, non c'è da scioccarsi, perché ovviamente escludendo dagli alimenti alcuni nutrienti, alcune sostanze delle quali un organismo, soprattutto in età pediatrica, necessita per la sua crescita e sviluppo, dobbiamo trovare un'alternativa. E quindi sì, ci sono degli alimenti come per esempio le bevande a base di soia o di riso, sono fortificate spesso con il calcio, oppure direttamente l'integratore, quando anche con gli alimenti non riusciamo a raggiungere il fabbisogno consigliato. Allora, in chiusura, dottoressa Pinto, torno da lei. Siamo partiti da questo caso di malnutrizione, il caso tra l'altro è stato segnalato, si legge, agli istituti sociali, e sulla vicenda potrebbe intervenire anche il Tribunale dei Minori. Ma chiudendo questo aspetto, io vorrei anche parlare dei bambini obesi e sovrappeso, no, dottoressa? Perché i chili in più sono, specie a maggior ragione nell'infanzia, un fattore di rischio molto importante anche per l'instaurarsi di malattie metaboliche che possono manifestarsi nel lungo e nel medio periodo, no? E questo argomento meriterebbe molto più spazio, ma gli abbiamo già dedicato spazio in altre trasmissioni. Noi abbiamo i bambini più rotondi, più cicciotti d'Europa, perché noi abbiamo sempre pensato, no, che ciccio fa salute, il bambino è bello grasso, un bambino in salute. Torneremo su questo tema, ma mi piace, no, anche condividere con i nostri ascoltatori, dato che abbiamo sottolineato i rischi di un'alimentazione carente di alcuni nutrienti, mi piace anche mandare sinteticamente un messaggio che arrivi ai genitori, che nel guardare il loro bambino, che magari ha un peso molto magari superiore a quello che i pediatri raccomandano, le linee, i percentili raccomandano, di fare un po' di attenzione. Dottoressa Pinto, mi aiuta lei? Sì, per essere proprio breve e concisa, mi limiterò a sottolineare che l'epidemia mondiale di malattie metaboliche legate all'iperalimentazione ci indica come la corretta assunzione di cibo, in termini, di nuovo sottolineo, non solo quantitativi ma anche qualitativi, sia fondamentale per la salute dei più piccoli, che poi non sono altro che gli adulti del futuro. Quindi attenzione. Attenzione a qualità, quantità e vabbè, nel caso ovviamente di questo tipo di problema, anche al tipo di vita che si conduce fin da piccoli. Allora, adesso passiamo subito alla linea perché siamo pronti per andare a scuola, ma voglio segnalarvi che raccogliamo un'intervista di un medico, la dottoressa Goggi, un medico all'ospedale Sacco, che ha fatto una scelta vegana, almeno ha un'alimentazione priva di prodotti animali, perché poi ci bisogna stare molto attenti anche nel peso delle parole, e ci rilascerà una breve intervista per raccontarci una giornata tipo di una mamma con i suoi bambini, due bambini piccoli, 6 mesi e 2 anni, ci racconterà la sua esperienza. Intanto ringrazio la dottoressa Francesca Pinto, la dottoressa Elisa Mariotti per la chiarezza, per qualunque necessità, informazione e domande, Cuore Denari è sempre aperto e quindi scriveteci e metteremo al lavoro i nostri esperti. Vi auguro una buona giornata e un buon lavoro, grazie. Grazie altrettanto. Adesso viriamo drasticamente con l'argomento e ritorniamo sui mercati finanziari, le cui vicende ci hanno tanto appassionato in questi ultimi giorni. Abbiamo avuto 2 giornate di rialzo per le borse europee, che hanno respirato un po' dopo le sedute che possiamo definire quasi traumatiche, quelle di venerdì scorso 24 giugno e di lunedì 27. Oggi si ritorna a scendere a Milano, le altre piazze finanziarie sono un po' più incerte, ma tutto sommato reggono. Il nervosismo noi ancora le stelle, soprattutto alle stelle l'incertezza su come si muoveranno prossimamente i mercati finanziari, e molti si chiedono: possiamo stare al riparo da altri shock dopo Brexit o dobbiamo imparare a convivere con questa situazione e con una condizione di volatilità continua, un giorno motivata da una certa circostanza e il giorno successivo da un'altra? In più ci mettiamo anche il possibile nuovo piano di messa in sicurezza del sistema bancario italiano, e quindi fattore che certamente agita un po' di più i sonni degli investitori, piccoli risparmiatori italiani. E con questa notizia il quadro è quasi completo, insomma, ad alimentare ancora le incertezze. Ripartiremo però dagli effetti post-Brexit nella nostra nuova puntata della rubrica Giovedì, del giovedì dedicata alla situazione sui mercati finanziari. Investire informati. Prima di presentarvi la nostra ospite, intanto naturalmente segnalo come sempre la possibilità che avete di chiamarci, l'800 24 00 24, per ragionare con noi sui temi di mercato che vi appassionano di più e quali sono anche quelle situazioni che magari non avete ben compreso, e se ci riusciamo oggi riusciremo, proveremo anche a darvi delle spiegazioni. Vi segnalo anche che oggi con il Sole 24 Ore in edicola la seconda puntata della guida Brexit, l'estate dell'incertezza. Oggi lo speciale si concentra su quali sono le piazze finanziarie più a rischio e quali le aree su cui puntare, come andranno euro, dollaro, yen nel medio periodo, quindi un focus sulle valute, con regina di tutte naturalmente la sterlina, e come altra, in quale altra maniera la potevamo definire se non la regina di questi giorni. Temi di cui parleremo anche con la nostra ospite, che l'ultima volta che abbiamo sentito eravamo in collegamento telefonico, noi eravamo io e Nicoletta a Rimini, lei non c'era con noi, all'IT Forum, e ci aveva svelato tanti interessanti retroscena di alcuni meeting del Fondo Monetario Internazionale di Washington a cui aveva avuto modo di partecipare. Chissà se oggi è in grado di raccontarci anche di qualche viaggio recente su Londra e di quello che ancora non abbiamo visto come impatto post-Brexit. Buongiorno e ben ritrovata Monica Defender, responsabile Global Asset Allocation Research di Pioneer Investment. Ho detto tutto? Mamma mia, che pronuncia perfetta. Insomma, oddio, no, sì, non esageriamo. Sì, eh. Allora, è stata a Londra da poco? Vado a Londra settimana prossima. E cosa, chi incontrerà? Cosa farà? In realtà vado a Londra dai colleghi, noi abbiamo un ufficio che ha sede lì. Lo chiuderete? Adesso no. La faccio subito sbilanciare. No, non credo, anche perché comunque Londra rimane una piazza importante. Noi abbiamo anche una sede a Dublino, quindi... hanno diversificato? Sì, la sede a Dublino e anche c'è una a Milano. Anche a Milano, quindi voi siete a Monaco, Vienna, certo. Boston, c'è l'imbarazzo della scelta. Però insomma quella di Londra non è in programma di fare come già molti vostri colleghi hanno pronosticato e preannunciato di spostarsi, o quantomeno diciamo che è un po' prematuro anche prendere una decisione di questo tipo fino a quando non sapremo come verrà pilotata in qualche maniera questa uscita di scena dall'Unione Europea di Londra e del Regno Unito. Allora, dottoressa Defender, primo commento a distanza di una settimana dal referendum britannico: ritiene che i mercati abbiano già espresso tutta la loro reazione o adesso cominceranno a muoversi a seconda di come si muoveranno le trattative a Bruxelles per far uscire appunto Londra dall'Unione Europea? Perché tutti hanno pagato le conseguenze di una scelta di un singolo paese in maniera così significativa? Allora, andiamo con ordine. La mia lettura del referendum inglese è che alla fine sia stato uno shock macroeconomico, e questo si è subito riflesso sui mercati. Ma questo shock è avvenuto in un contesto di crescita macroeconomica, di politica monetaria e contesto politico che sono molto fragili. Per cui quanto più è fragile un'economia, tanto più risulta essere sensibile a qualsiasi tipo di shock. C'è stato Brexit, possiamo andare alle prossime al referendum in Italia in autunno, piuttosto che le elezioni americane. Quindi ci saranno tanti di questi eventi politici che per forza di cose avranno delle conseguenze importanti sui mercati finanziari. Questo perché c'è una fragilità di fondo, c'è poca crescita, l'inflazione non c'è, siamo sempre con la paura di rientrare sulla deflazione, e le banche centrali sono sempre pronte a intervenire, come è successo venerdì con la Banca di Inghilterra. Qual è la risposta che ci vuole a Brexit? Breve periodo, banche centrali. Le banche centrali sono stati i nostri medici. I supplenti della politica, vedi. Anche, ecco. Purtroppo sì, di questo io sono assolutamente convinta. Noi abbiamo caricato la Banca Centrale, e in particolare la Banca Centrale Europea, di compiti e responsabilità che l'hanno indotta ad andare alla frontiera del suo mandato e cercare di colmare quel vacuum che purtroppo la politica non è riuscita a colmare con riforme, risposte di riforme strutturali. Quindi sicuramente nel breve è importante il ruolo delle banche centrali. Nel lungo periodo è importante che però ci sia una risposta politica, e devo essere sincera, il consiglio che c'è stato negli ultimi due giorni, che si è chiuso ieri sera, io non mi aspettavo che se venissero fuori con pallottole d'argento per risolvere tutti i nostri problemi, però sono state date delle chiare indicazioni, erano proprio quello che serviva. Ed è penso per questo che i mercati stanno riassorbendo parte dello shock indotto da Brexit. Perché l'abbiamo pagato tutto? Perché i mercati sono globali, perché per fortuna siamo in una eurozona, quindi siamo dei paesi, degli stati membri che lavorano insieme, che hanno un progetto comune, e quindi purtroppo onori e oneri. I mercati che sono globali, e soprattutto in una zona che tenta di avere un disegno comune, purtroppo questo è stato lo scotto da pagare. Perché i paesi del continente sono rimasti un po' più indietro? Perché c'è il tallone d'Achille di Eurozona, che è il sistema finanziario. Infatti la prossima domanda sarebbe stata: per quale motivo una crisi britannica propagata inevitabilmente a livello politico su tutti gli altri paesi anche si ripercuote con una curiosa cinga di trasmissione sui titoli finanziari italiani, per esempio, mentre la Borsa di Londra, ieri lo hanno sottolineato moltissimi osservatori, si è addirittura riportata sui livelli pre-referendum, ha riconquistato praticamente il territorio positivo, mentre Milano paga un dazio ancora molto profondo rispetto a quello che è successo in questi giorni, e anche le altre piazze europee sono in negativo. Pensate che mi sono fatta fare stamattina dall'ufficio studi del Sole 24 Ore di nuovo il bilancio dall'inizio dell'anno delle borse europee. Milano è di gran lunga la peggiore di tutte, perde circa il 25%, va ad un calo di circa il 18%, una borsa molto lontana dalla nostra, che è quella di Tokyo, meno 10 per lo Stoxx 600 appunto europeo, l'Euro Stoxx è a meno 12, Parigi meno 9, Francoforte meno 10, Atene meno 14, quindi è stata molto penalizzata in questi giorni, ma addirittura dall'inizio dell'anno va molto meglio di Milano, è una piccola borsa, d'accordo, però ha molte caratteristiche simili a quelle di Piazza Affari, quindi questa è un po' la situazione. Londra è in rialzo di 2 punti. E quindi allora ci spiega un po' meglio questa storia della cinghia di trasmissione dalla crisi britannica alle banche italiane? Io credo che non si tratti proprio di una trasmissione, è in un contesto di fragilità, vai a prendere laddove tu hai il fianco più debole. Come dicevo prima, il sistema finanziario è il tallone di Achille di Eurozona. Quando ci siamo visti l'ultima volta, io parlavo dell'unione bancaria come il punto di svolta, quello che davvero secondo me può cambiare la situazione in Eurozona, e ne sono ancora convinta. Quindi il problema delle banche, lavorare per ridurre il rischio di default, lavorare per evitare l'effetto domino che da questi potenziali default può sopraggiungere, è fondamentale. E in questo devo dire che nelle mie visite in Italia questa volta ho ascoltato posizioni molto costruttive che mi hanno abbastanza convinto. Sto parlando del fondo Atlante, che tra l'altro è ritornato alla ribalta, certo, perché è la soluzione. Riempito di liquidità perché si è finito tutti i soldi, visto esatto, che ha dovuto intervenire solo ma su due banche. Devo dire, io avevo incontrato Petrignano Penati a una settimana dall'annuncio del fondo Atlante di Questio, e l'idea era proprio di aver incontrato delle persone che con il cuore in mano l'avevano lanciato oltre l'ostacolo ed erano partite davvero in fretta, e quindi hanno raccolto 4 miliardi e mezzo, ma perché avevano avuto proprio poco tempo. La loro idea era di dire: noi dobbiamo partire perché dobbiamo dare una risposta immediata e poi vediamo. ci aggiustiamo nel tempo, possiamo far partire un altro fondo Atlante, possiamo riaprire a nuovi investitori, oggi ce ne sono 65, possiamo avere più investitori internazionali, sì. Ma l'importante era in quel momento si dare... parla anche di una possibile iniezione di liquidità da parte delle casse di previdenza italiane, che da molto tempo vengono richiamate appunto come soggetti che potrebbero intervenire per il sostegno all'economia reale, quindi questa potrebbe essere per esempio l'occasione giusta. Certo, anche perché la risposta dall'Europa è stata molto chiara, no? su quelle che sono le possibili vie o scorciatoie, come qualcuno le ha voluto chiamare, che sono state negate all'Italia sul bail-in. È un fondo privato e quindi lo Stato non dovrebbe c'entrare, ma è proprio la risposta, esatto. È lì. Devo dire che rincontrati le persone chiave di Questio 15 giorni fa, sono andati molto avanti. E forse sì, ci dobbiamo dare tempo, e per la prima volta davvero la Didi di Questio, il presidente, c'era Padoan, c'era il ministro di giustizia, io ho visto uno Stato che funzionava, cioè proprio la volontà di voler fare delle cose, e mi ha molto colpito perché siamo sempre, no, molto disfattisti nei confronti del nostro paese. Io sono stata orgogliosa di essere in quella parte e di sentire le persone che mi stavano convincendo. Che ne dica la signora Merkel, a cui invece questo percorso non piace. Io volevo ringraziare Monica De Fende per essersi anche esposta su un argomento delicato come questo, perché so che con un profilo molto delicato come il suo in realtà non è facile anche dare e raccontare ad una platea radiofonica appunto anche in retroscena di certi incontri, e quindi insomma dopo averlo fatto raccontandoci cosa succede a Washington e anticipandoci che va a Londra e gli uffici di Pioneer lì al momento non chiudono, non si trasferiscono anche più che non chiudono, e poi ci racconta anche quello che succede con il fondo Atlante, questo fondo di stabilizzazione bancaria appunto, che al momento è potuto intervenire solamente per ricapitalizzare, anzi per andare a controllare la Popolare di Vicenza, e adesso Veneto Banca dovrà essere probabilmente rimpinguata un po' in termini di cassa, perché i soldi sono finiti, doveva gestire anche la questione delle sofferenze bancarie, che è molto importante, quindi come dire, situazione in evoluzione. In tutto questo sono già le 11:32, tardissimo, devo raccontarvi cosa succede oggi in borsa. Poi ritorniamo invece sull'altro grande tema, quello valutario, perché è molto importante monitorare l'andamento delle divise. Questo tema sarà anche oggetto, attenzione, del nostro domandone, quindi non perdete il prossimo approfondimento. Intanto andiamo alla seduta di borsa di oggi. Banca Mediolanum, costruite intorno a te. Vi presenta... Cuore e denari. Eh sì, una settimana fa Londra ha chiamato, proprio una settimana fa cominciavamo in queste ore a seguire i dati sul flusso elettorale, poi in nottata la bella sorpresa che abbiamo avuto dalle prime ore, un referendum che sembrava andare in un certo modo e invece praticamente dalle 2 di notte in avanti tutto il contrario, e poi la sorpresone che la borsa ci ha fatto invece nella giornata successiva, quando l'esito del referendum britannico è stato chiaro e conclamato. Gli effetti su cui ci siamo concentrati in questi giorni: intanto il crollo della sterlina, il crollo delle borse, in particolar modo di quelle periferiche, Grecia, Spagna, Italia, su tutto il crollo dei titoli finanziari, la tenuta della borsa di Londra e tutto sommato anche di Wall Street, temi di cui stiamo ragionando questa mattina con Monica De Fende, nel nostro spazio Investire Informati, responsabile Global Asset Allocation Research di Pioneer Investment. Naturalmente anche qualche commento con i nostri ascoltatori un po' disorientati rispetto ai fatti degli ultimi giorni. In realtà il disorientamento sembra essere ormai diventato la condizione essenziale per di un periodo che in realtà sembra esageratamente lungo, perché, dottoressa De Fende, effettivamente di fatti che ci sorprendono ne abbiamo ormai uno al mese. Abbiamo iniziato l'anno con la terribile crisi cinese, di cui avevamo già avuto un assaggio la scorsa estate, poi tutto il focus sul tema del petrolio, le questioni bancarie appunto, che sono sempre ben presenti all'ordine del giorno. Adesso abbiamo avuto il referendum britannico e dovremo, lei ci anticipava già prima, tenere altri temi sotto osservazione prossimamente, tutti che sono molto condizionati dalla politica. Detto questo, un ascoltatore chiede un chiarimento che abbiamo già dato nei giorni scorsi, ma magari vale la pena rispiegarlo ancora: perché Londra è la borsa che meno di tutte è penalizzata da quello che è successo in casa loro? Perché Londra si sta avvantaggiando di questa situazione? Paradossalmente si sta avvantaggiando ovviamente del crollo della sterlina. Perché? Ma ci sono due questioni. Prima di tutto, quelli che sono stati i riposizionamenti degli hedge fund e quindi le posizioni speculative di forte vendita e di scarico delle posizioni sul mercato azionario inglese e poi di parziale copertura. Quindi questa è proprio la parte di chimica, se vogliamo, idraulica dei mercati finanziari. Detto questo, il motivo per cui la reazione è diversa è perché è diverso il contesto di riferimento, nel senso che l'Inghilterra è un paese che ha un livello di disoccupazione e un tasso di crescita tali che addirittura la banca centrale stava pensando di poter cominciare ad aumentare i tassi. Quindi è uno stato di salute migliore rispetto a quello purtroppo di Eurozona, che continua a fare fatica e a non trovare a livello nazionale, quindi dei vari paesi membri e tra i vari paesi, un accordo per delle soluzioni uniche che possano favorire la ripresa della crescita in Eurozona. Quindi la situazione di fondo è diversa e questo fa sì che la reazione al riposizionamento dei fondi speculativi alla fine sia diversa. Il problema delle banche c'era prima e c'è ancora. Finché non lo risolveremo con l'unione bancaria e non capiremo come gestire il rischio di default, rimarrà sempre il nostro tallone d'Achille. Al di là della portata ideologica che uno shock come quello di Brexit ha avuto. Certo. No, tra l'altro stavo anche controllando adesso il listino inglese con le società che oggi guadagnano di più e sono molte società minerarie legate alle materie prime, per cui appunto gruppi che beneficiano della sterlina che è precipitata. Andiamo all'altro tema su cui gli ascoltatori si appassionano molto da molti mesi a questa parte, non si appassionano ma non in termini generalmente propriamente positivi, il tema dei titoli di Stato che rendono sempre meno. Facciamo un piccolo focus sul mercato obbligazionario. Questo settore era già molto sotto pressione ben prima del referendum inglese. Ieri il Sole 24 Ore ricordava come già un mese prima del referendum britannico l'ammontare delle obbligazioni governative con rendimenti negativi a livello globale avesse abbattuto la soglia dei 10.000 miliardi di dollari, una cifra che noi non riusciamo neanche a immaginare di scrivere, esatto. E noi siamo investitori in titoli di Stato, facciamo fatica a farci una ragione del fatto che lo Stato non ci remuneri più. Dottoressa De Fende, ma questa situazione quanto è destinata a durare ancora? Io credo che dovremmo proprio abituarci a quest'idea di rendimenti sul corso delle attività finanziarie più ridotti. Perché? Se io prendo un titolo di Stato a 10 anni, l'idea di un rendimento che io ne posso ottenere è il PIL più l'inflazione. Questa è l'identità base che mi hanno insegnato quando ho cominciato a fare questo mestiere. E se il PIL è all'1% e l'inflazione è a 0,1%, la matematica ti dice che più dell'1% non ti può dare. E questa cosa qui, visto che comunque le prospettive di crescita sono strutturalmente di una crescita più moderata, più bassa, a meno che non ci sia una ripresa della produttività, purtroppo non consegna dei rendimenti obbligazionari superiori. Passiamo alle azioni. Le azioni pagano un premio rispetto alle obbligazioni, quindi avrò il PIL, l'inflazione più un premio per il rischio, perché giustamente essendo più volatili voglio un premio in più. Ma questo premio quanto può essere? Del 3%? E allora anche lì veniamo fuori con dei rendimenti nominali che sono intorno al 5-6%. E sono ben lontani dai numeri a doppia cifra a cui siamo stati fortunatamente abituati nel passato. Quando però anche passato. L'inflazione viaggiava a livelli diversi, per cui era tutto parametrato anche a quello, esatto. No? Cioè proprio dobbiamo, come dici tu, bisogna cambiare la scala di riferimento. E qual è tutto l'impegno delle riforme strutturali di cui tanto parliamo ma che non riusciamo a capire bene a che cosa servono? Quello di far recuperare la produttività. È proprio su quello che bisogna insistere per cercare di consegnare una crescita superiore laddove le dinamiche demografiche piuttosto che il livello del debito, non ci stanno aiutando. Senta, volevo accontentare, anche se noi generalmente domande di questo tipo non le prendiamo perché non possiamo e non vogliamo dare indicazioni di investimento dettagliate, perché ognuno deve fare quello che serve alla propria famiglia, quindi fare un investimento e pianificare la gestione del proprio risparmio in base agli obiettivi finanziari di vita. Quindi Giancarlo, mi rivolgo a lei che ci fa due domande molto precise, perché chiede come investire i nostri soldi con profilo rischio medio. Il vostro esperto sta comprando quali settori? Gliela giro in maniera diversa, dottoressa Defende. In quali comparti in questo momento vede un andamento solido che permette loro di rimanere abbastanza neutrali rispetto a questi scossoni di mercato determinati appunto e dalle vicende politiche in particolar modo, Allora, premesso che quello che sarà l'andamento dei corsi azionari sarà profondamente direzionato dalle politiche e dalle decisioni politiche che verranno implementate, mi sembra che l'area dei mercati emergenti stia sterilizzando un po' quello che sta avvenendo nei paesi sviluppati. Dovesse il dollaro americano però rimanere in questo intervallo, se il dollaro americano si rafforza tanto, allora a quel punto per i mercati emergenti potrebbe esserci un problema. Perché i mercati emergenti? Perché stanno ribilanciando i propri modelli di crescita e stanno andando un po' nella loro strada, rivolgendo la crescita più sulla domanda interna, quindi proprio cercando di sterilizzare l'effetto esterno. Quindi in maniera molto selettiva, perché un conto è parlare di Taiwan, un conto è parlare di Corea, un conto è parlare di Cina, quelle sono le aree che io tendo a preferire, perché dove c'è crescita è minore rispetto al passato, certo, la Cina dava il 12%, adesso siamo al 6. Adesso siamo al 6-7, certo, ma l'America sta all'1,5, per cui è comunque un premio che mi sento di voler prendere. Detto questo, credo che i portafogli debbano essere molto diversificati. Noi quello che stiamo facendo prima di Brexit, noi non volevamo scommettere su un evento, tanto noi non scommettiamo, perdonami il termine, noi non avevamo idea di chi avrebbe vinto, volevamo arrivare all'evento perché sapevamo che non ci sarebbe stato un grosso scarto né in un caso né nell'altro, ma volevamo arrivare al venerdì cercando di limitare le perdite, cercare laddove si potesse aggiungere valore. Quindi abbiamo detto, ma dovesse esserci un esito di Brexit, andiamo sui beni rifugio, e quindi noi avevamo cominciato a comprare dollari, oro, noi avevamo il franco svizzero verso la sterlina inglese perché pensavamo che questo potesse essere un'utile copertura nel caso dell'evento che poi si è verificato di Brexit. Poi ci siamo detti, ma se invece UK dovesse rimanere, che cosa facciamo? Acceleriamo sul rischio? E ci siamo detti di no. Perché? Perché comunque la situazione di fragilità economica non consente in questo momento di prendere delle decisioni molto, molto forti e rischiose. È una cosa che noi nei nostri portafogli non vogliamo avere per tutelare quello che è il patrimonio che vi assegnano, certo, anche la vostra clientela. Allora ci fermiamo, abbiamo i suggerimenti perché in viaggio, poi chiedo a Carmelo al rientro di preparare già la sigla del nostro domandone, perché la dottoressa Defende ci ha dato l'assist che mi serviva per fare proprio la domanda ai nostri ascoltatori per vedere se hanno sentito tutto quello che abbiamo detto fino a questo momento. A tra poco. Cuore e denari. Come direbbe Nicoletta, oggi mi sono scesi i canini e quindi praticamente faccio la doppia domanda, il doppio domandone un po' perfida. La prima è facile, la seconda è un po' più difficile e richiederà il fatto che voi abbiate comprato l'estate dell'incertezza, Brexit e delle Sole 24 di questa mattina. Naturalmente scherzo, in realtà secondo me questa risposta con il vostro veloce navigare su internet la troverete lo stesso. Allora, la prima è semplice, per chi la vuole facile, fateci tre esempi, tre almeno, due non sono sufficienti, ma almeno tre esempi di beni rifugio. È facile perché ne indichiamo tantissimi nella nostra trasmissione. Accettiamo, se volete guadagnarvi il nostro libro, solo le risposte all'800 24 00 24. Per chi invece vuole tentare un quesito più pretenzioso, così vediamo se avete letto Il Sole di oggi e se volete, se ci tenete proprio al doppio libro anche di Cuore e Denari. Allora, come si chiama nel linguaggio degli operatori del mercato valutario il cambio sterlina-dollaro e perché? Questa è cattiva, è proprio cattiva. Ma ti vedo io stessa, il cioè non crediate che io la sapessi, l'ho scoperta qualche giorno gliel'ho fa. L'ho detta io, ecco. Naturalmente. E stamattina Il Sole ci ritorna, senti, per cui è una definizione storica molto carina, molto divertente, per cui abbiamo portiamo a casa anche, semmai se, male che ci va, se non abbiamo il libro portiamo a casa una nozione e in più. E se un ascoltatore risponde a entrambe le domande? Due libri che li portiamo direttamente a casa. Infatti. Allora, dottoressa Defende, le ultime considerazioni con lei, tassi di interesse, politiche monetarie, gli Stati Uniti a questo punto, con tutto questo caos che si è manifestato in questi giorni, saranno costretti a stare fermi con i tassi di interesse per tutto il 2016. Addirittura c'è chi ipotizza che si faccia anche il salto della quaglia l'anno prossimo, si passi addirittura al 2018 con un prossimo nuovo aumento dei tassi americani. Insomma, questa è una buona notizia per il mercato, per i risparmiatori che investono sui titoli di Stato e diversificano anche puntando sul mercato americano? Allora, io il mercato sta apprezzando un possibile rialzo dei tassi a fine 2017, quindi come dicevi tu non se ne parla. Noi in realtà pensavamo che non avrebbero fatto nulla né a giugno né a luglio, un po' per la fragilità dell'economia americana, che sì, cresce all'1,5-2%, ma non sono ancora i tassi e la qualità di crescita che vedevamo nel 2007, prima che questa crisi cominciasse. In America c'è un problema di inflazione, di salari che ancora non si vede, sta timidamente riprendendo, ma non è ancora ai livelli che credo la governatrice Yellen voglia avere, quindi scarterei una possibilità di rialzo sicuramente nel 2016. Tra l'altro si sono appena visti in Portogallo i banchieri a Sintra. E subito a ridosso di Brexit, e credo che lì abbiano deciso in che modo, in maniera coordinata, le banche centrali, come al solito, cercheranno di aiutare a preservare la stabilità finanziaria e aiutare la crescita economica. Perché anche le azioni della Banca Centrale del Giappone ci interessano in maniera così rilevante, dottoressa Defende? Quindi anche il Giappone è un'area che viva pure una condizione di fragilità abbastanza peculiare e che perdura appunto da anni, eppure continuiamo a monitorare quest'area con grande attenzione. Per quale motivo? Perché anche in Giappone, nel momento in cui il governo ha deciso di intraprendere la via del ribilanciamento dell'economia, di uscita dalla spirale deflazionistica, ha puntato tutto su Kuroda, quindi tutto sulla banca centrale giapponese, che a differenza delle altre banche centrali è un po' meno indipendente rispetto alle altre banche, e quindi qualsiasi passo in avanti noi vogliamo vedere dal Giappone, purtroppo arriva sempre dal lato della politica monetaria piuttosto che dal lato della politica economica. E poi lo yen ci ha regalato una grandissima performance in occasione di Brexit, è stata proprio una delle reazioni a fronte del referendum. E adesso lì vediamo, perché sulle valute è forse la cosa che mi preoccupa di più, perché le valute sono la classe di investimento che è più reattiva e più sensibile a questo tipo di shock, perché la crescita che abbiamo avuto negli ultimi 4 anni, assistita dalle banche centrali di fatto in maniera implicita, perché assolutamente la valuta non è negli obiettivi della banca centrale, ma è avvenuta tramite esportazioni e svalutazioni. Quindi il rischio di svalutazioni concorrenziali c'è, secondo me, e non è banale. Allora, secondo lei, quando un piccolo risparmiatore coglie il suggerimento che tutti i consulenti danno di diversificare al massimo il proprio portafoglio, secondo lei, se magari ritiene di non essere abbastanza forte da sopportare tutte le oscillazioni di mercato, deve proteggersi dai rischi cambio oppure avvantaggiarsi dal rischio di cambio? Io bisogna fare un distinguo sulle valute. Se stiamo parlando del dollaro, per esempio, del dollaro americano, e lì è un paese che, anche se in maniera più fragile, sta crescendo. Se cresce bene e la Fed dovesse rialzare i tassi, il dollaro si rafforza. Se le cose vanno male, è un bene rifugio. Quindi tutto sommato io un po' di dollaro americano in portafoglio me lo metterei. Andare a giocare sulle altre valute è una cosa che noi ieri ci siamo incontrati con i miei colleghi e abbiamo deciso che non è un rischio che al momento ci vogliamo giocare. Ve ne abbiamo sentiti di assumere. Sì. Laura, le sottopongo le risposte dei nostri ascoltatori. Sentiamo un po' se Maurizio da Milano è in grado di farci almeno 3 esempi di beni rifugio. Maurizio, buongiorno, benvenuto. Buongiorno. Allora, oro, diamanti e opere d'arte. L'accettiamo, dottoressa De Fende. Non avevamo contemplato una di queste. Oro, incenso e mirra. Anche io pensavo la stessa cosa. Maurizio, allora, diciamo che su un paio potremmo anche concordare. Allora, in realtà poi sul tema delle opere d'arte c'è tutta una filosofia di vita e di investimento che può permettere a questa categoria di essere anche ascritta a quella appunto del bene rifugio. Dai, realtà ma stamattina noi ci focalizzavamo sull'ambito finanziario proprio stretto, per cui sentirei Bruno da Prato che a occhio mi sembra un po' più bravo. Non più bravo, però un po' più pertinente, Maurizio, con quello che chiedevamo. Hai dato veramente un colpo all'autostima di Maurizio. Vuoi vedere che gli mando il libro io invece? Continuo a insistere con mio marito che i diamanti sono un bene rifugio. Ma faremo una trasmissione presto perché c'è grandissima richiesta da parte degli ascoltatori. Bruno, veloce, grazie. Sì, allora, oro, titoli di Stato tedeschi e in subordine americani e sul settore valutario lo yen giapponese e il franco svizzero. Vabbè, Bruno fa proprio il primo della classe. Vabbè, allora così, la accendiamo? Le mando anche un bel report di Monica De Fende, anzi se andate sul sito di Pioneer Investment fra dei gran bei video appunto in cui spiega un po' come vanno le cose nel mondo dell'economia e della finanza. Invece Alba da Genova si candida a rispondere a quella più difficile. Come si chiama nel linguaggio degli operatori del mercato valutario il cambio sterlina-dollaro, Alba, e perché? Pronto? Alba, ci siamo, velocissima. Pronto? Sì. Ah, sì, il cambio si chiama cable perché era trasmesso via cavo tra gli Stati Uniti e l'Inghilterra. Ha capito? Le donne sempre numero uno. Grandissima. Meno male che l'ha detto lei, perché sennò io ho un ascoltatore che mi taglia la testa. Sembrava che fossimo un po' di troppo sbilanciate. Però Alba, grande. E insomma, in tutto questo siamo arrivati alle 11:57 e la nostra trasmissione è terminata anche oggi. Abbiamo detto tantissime cose, insomma speriamo di aver aiutato ancora una volta i nostri ascoltatori ad orientarsi in questi mari in tempesta dei mercati finanziari. Servono delle zattere o delle imbarcazioni più solide, soprattutto dei buoni consulenti finanziari che ce li sappiano spiegare bene e ci sappiano accompagnare nelle nostre scelte. Grazie Monica De Fende, buone vacanze, se non la vediamo grazie più mille. Ci rivediamo forse a settembre, invece con te ci vediamo tra tre adesso. Secondi. Ecco, buona dopo, giornata. Buona giornata.